Sezione seconda di Nuove Odi Barbare di Giosuè Carducci. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Pierre. All'aurora. Tu sali e baci, o Dea, col roseo fiato le nubi, baci de marmoree templi le fosche cime. Ti sente, e con gelido fremito destasi il bosco, spiccasi il falco a volo su, con rapace gioia, mentre nell'umida foglia pispigliano garruli nidi e grigio urla il gabbiano sul violaceo mare. Primi nel pian faticoso di te s'allegrano i fiumi, tremuli luccicando fra il mormorar de pioppi. Corre dai paschi baldo ver l'alte fluenti il poledro sauro, erto il chiomante capo nitrendo a venti. Vigile, dai tuguri risponde la forza dei cani, e di gagliardi mughi tutta la valle suona. Ma l'uom che tu svegli a oprar consumando la vita, te, giovinetta antica, te, giovinetta eterna, ancor pensoso ammira, come già t'adoravan sul monte, ritti fra i bianchi armenti, i nobili aria padri. Ancor, sovra l'ali del fresco mattino, rivola l'inno, ch'a te sull'aste disser poggiati i padri. Pastorella del cielo, tu, frante alla suora gelosa le stalle, riadduci le rosse vacche in cielo. Guidi le rosse vacche, guidi tu il candido armento e le bionde cavalle care ai fratelli asvini. Come giovine donna che va dai lavacri allo sposo, riflettendo negli occhi il desiato amore, tu, sorridendo, lasci caderti i veli leggiadri e le virginee forme scopri serena ai cieli. Affocate le guance, ansante dal candido petto, corri al sovran dei mondi, al bel fiammante Suria, e il giungi, e in arco distendi le rose braccia al gagliardo collo, ma tosto fuggi di quel tremendo irai. Allora gli asdini gemelli, cavalieri del cielo, rosea tremante accolgon te nel bel carro d'oro, e volgi verso dove, misurato il cammino di gloria, stanco ti cerchi il nume nei mister della sera. De propizia trasvola, così ti invocavano i padri nel rosseggiante carro sopra le nostre case. Arriva dalle plaghe d'Oriente con la fortuna, con le fiorenti biade, con lo spumante latte, ed in mezzo a vitelli danzando con floride chiome, molta prole t'adori, pastorella del cielo. Così cantavano gli aria. Ma piacqueti meglio li metto fresco di 20 rivi, che al ciel di timi odora. Piacquerti sul metto i lesti cacciatori mortali, prementi le rugiade col coturnato piede. Inchinaronsi i cieli. Un dolce chiarore vermiglio ombrò la selva e il colle quando scendesti, Odea. Non tu scendesti, Odea, ma Cefalo, attratto al tuo bacio, salia per l'aure lieve, bello come un bel dio. Sugli amorosi venti salia, fra soavi fragranze, fra le nozze dei fiori, fra gli Imenei derivi, la chioma d'oro lenta irriga al collo, all'omero bianco con un cinto vermiglio sta la faretra d'oro. Cadde l'arco sull'erbe, e l'ela poi immobil, con erto il fido arguto muso, mira salire il sire. O baci d'una dea olezzanti fra la rugiada, o ambrosia dell'amore nel giovinetto mondo, ami tu anche, o dea? Ma il nostro genere è stanco. Mesto il tuo viso, o bella, sulle città di appare. Languon fiocchi fanali, rincasa, e nemmeno ti guarda una pallida torma che si credè gioire. Sbatte l'operaio rabbioso le stridule imposte e maledice al giorno che rimena il servaggio. Solo un amante, forse, che placida al sonno commise la dolce donna, caldo de baci suoi le vene, ala che affronta e lieto l'aure tue gelide il viso. Portami, dice Aurora, sul tuo corsier di fiamma, nei campi delle stelle mi porta, ond'io vegga la terra tutta sorridente nel roseo lume tuo, e vegga la mia donna davanti al sole che leva sparsa le nere trecce giù per il rorido seno. Fine della sezione seconda.